in primo piano. Le 7 e quasi 34 minuti, una buona giornata da Laura Bettini, in regia c'è Paolo Corleoni e vedremo insieme le pagine dei quotidiani di quest'oggi nella prossima mezz'ora. Cominciamo dalle aperture che oggi sono molto variegate, vedremo, non tutti scelgono gli stessi temi e poi vediamo anche qualche approfondimento, quelle questioni che magari si ha meno tempo di approfondire o meno spazio di approfondire nei nostri giornali radio che ovviamente vi accompagnano nel corso di tutta la giornata aggiornandovi. Iniziamo da Sole 24 Ore, l'apertura è per il fisco, fisco per 16 milioni di contribuenti, sconti da 16 a 100 euro al mese, piano illustrato ai sindacati, benefici al via dal 1° di luglio per redditi fino a 40.000 euro per 4,3 milioni di dipendenti, ci dice ancora il Sole, oggi esclusi dagli 80 euro, incrementi fino al 5,6%. Per chi aveva già il vecchio bonus, il reddito disponibile cresce di 20 euro al mese. Quindi andiamo da 80 a 100 e questa è una questione che ritroveremo spesso. Al centro pagina del Sole 24 Ore, Banca Italia in 3 mesi PIL a zero, Istat a novembre export giù del 4,2% e su questo dato vedremo invece interpretazioni diverse, perché se i numeri sono quelli poi la lettura è diversa su alcuni quotidiani. È il peggior calo dal 2011 quello che riguarda l'export, scrive il Sole 24 Ore. La fotonotizia, vediamo il presidente turco Erdogan, la doppia sfida di Erdogan sul gas per crescere in Libia e a Cipro, ne scrive Roberto Bongiorni. Il Mediterraneo orientale è entrato nelle mire espansionistiche della Turchia, il presidente turco e il premier libico del governo di accordo nazionale di Tripoli, al-Serraj, hanno firmato lo scorso novembre un accordo per la definizione dei confini marittimi, scrive Bongiorni, e per lo sfruttamento delle rispettive zone economiche esclusive, senza tenere conto dei diritti degli altri paesi dell'area. Però la Turchia mette così in discussione le concessioni affidate dal governo cipriota di Nicosia alle compagnie petrolifere straniere. E andremo poi a leggere nel dettaglio perché la pagina che il Sole 24 Ore dedica a questa questione, che parte appunto dalla Turchia, approda poi anche al mare Adriatico, di cui scrive Jacopo Giliberto. I paesi balcanici perforano l'Adriatico che l'Italia abbandona, e poi un'analisi di Sissi Bellomo sul gas economico e green che affossa il carbone. Quindi una pagina dedicata alle energie e alla geopolitica legata alle energie. Su Repubblica l'apertura, ora l'Europa ha un piano. Riguarda i migranti questa affermazione, perché c'è un'intervista su Repubblica oggi al nuovo commissario Schinas, patto solidale per accoglimenti e rimpatri, polizia e navi dell'Unione alle frontiere, caso Gregoretti, lunedì il voto in giunta come voleva Salvini, decisiva la Casellati, questo l'abbiamo sentito abbondantemente appunto nei notiziari, i Dem con tutti i commenti del caso, i Dem, la Presidente del Senato non è imparziale, dicono. Governo, Conte risponde alle sardine, sono pronto a incontrarvi. Insomma, questo è il riassunto di giornata che parte dai migranti e arriva alle sardine, che fa Repubblica, dove un primo piano è dedicato anche al bonus a 100 euro di cui dicevamo, sgravi per 16 milioni di dipendenti, meno tasse per i redditi fino a 40.000 euro e Castelli dice adesso assegno per i lavoratori poveri. Andiamo di qui, poi torniamo ovviamente sulla lettura dell'intervista al commissario europeo Schinas, perché la questione migranti ovviamente è centrale in Italia negli ultimi anni ed è fonte di continua discussione. Dicevo, andiamo avanti a vedere le prime pagine sulla Stampa, il taglio completamente diverso oggi. Lamorgese, quindi ministro dell'Interno, c'è un colloquio, quindi non proprio un'intervista, ma il resoconto di un colloquio con la ministra dell'Interno, che dice la Lamorgese: task force contro la mafia in Puglia. Sicurezza, sì del governo alla pistola elettrica per le forze dell'ordine, i dubbi dei sindacati, in caso di morte o feriti si rischiano sanzioni penali. Al centro pagina un tema molto interessante: l'Unione Europea dice no al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. Il sistema usato dai big della tecnologia sta diventando sempre più invasivo in Cina e negli Stati Uniti, e appunto l'Unione Europea si schiera e dice la sua, ovvero dice no per quello che riguarda i luoghi pubblici, e sicuramente ci torniamo su questa questione. Corriere della Sera, voto su Salvini, ira tra PD e Movimento 5 Stelle, accuse alla Casellati, decisiva per evitare il rinvio, lei dice non sono di parte. Questa è l'apertura, mentre al centro pagina la foto notizia: la guida suprema non parlava dal 2012, ovvero l'Ayatollah Ali Khamenei, 80 anni, ha condotto la preghiera del venerdì a Teheran, è l'autorità religiosa più alta in Iran, e quindi la fotografia ritrae appunto l'Ayatollah Khamenei. La preghiera anti-USA di Khamenei, ci pugnaleranno alle spalle, è il titolo dell'articolo di Viviana Mazza, che riguarda appunto questo intervento ieri di Khamenei. Sempre sul Corriere della Sera arriva il Dante D, cioè la giornata di Dante. Non poteva chiamarsi Dante Day, essendo il padre della lingua italiana, quindi si chiamerà Dante D. La giornata dedicata al poeta sarà il 25 di marzo, prime iniziative quest'anno. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, resterà nel calendario anche dopo le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del poeta. Anche qui si ricorda sul Corriere della Sera, sulle buste paga per 16 milioni di dipendenti, tema appunto forse il più ricorrente sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, assieme ovviamente alla questione Gregoretti, diciamo così, definiamola così. Quotidiano nazionale, tasse giù fino ai 100 euro in busta, accordo governo sindacati, taglio del cuneo per i redditi sotto i 40.000 euro, coinvolti 16 milioni di contribuenti. Al centro pagina un'iniziativa molto interessante: il calendario di una classe elementare in Sardegna, i bimbi nei panni degli eroi del Novecento. Quindi c'è la fotografia originale, quella per esempio famosissima di Falcone e Borsellino, ebbene i bambini ritratti nella stessa posa e anche in bianco e nero, quindi volendo proprio perfettamente riprodurre le fotografie forse più note di personaggi, appunto gli eroi del Novecento, per esempio una bambina nella stessa posa di Frida Kahlo, quella fotografia ben nota con la acconciatura e tutti i fiori. Poi vediamo Maria Callas, vediamo addirittura i Beatles, oppure il Mahatma Gandhi. Sono fotografie davvero affascinanti e l'idea è molto curiosa e sicuramente una buona occasione anche per parlare con i ragazzi degli eroi del Novecento, i bambini in questo caso, perché è una scuola elementare. Il Giornale a tutta pagina titola: il governo Carola, tutti uniti per gli immigrati, per i giudici la rachete non andava arrestata, Conte corre ad aiutare le ONG. Scrive il Giornale: Carola Rackete, la capitana che con la sua nave forzò il blocco dei porti, non doveva essere arrestata. Un altro pezzo del sistema accoglienza va a posto grazie alle toghe e al governo Carola guidato da Conte. Sul caso Gregoretti intanto si voterà lunedì in giunta, PD e Movimento 5 Stelle che vogliono arrestare Salvini protestano. Questo è il riassunto punto di vista del Giornale sulla questione, che al centro pagina ci dice anche che ha ascoltato le canzoni, ecco il meglio di Sanremo, Paolo Giordano firma l'articolo e il pagellone in anteprima, così dice. Sul Fatto Quotidiano l'apertura è dedicata a Bibbiano, sardine sfrattate per dare la piazza a Salvini, il movimento aveva bruciato il capoleghista sul tempo per il comizio del 23, la questura ora pretende che rinunci e gli ceda il posto, ovvero gli ceda la piazza. Sempre dal Fatto Quotidiano, Di Maio vede l'Appendino, prepara il nuovo vertice 5 Stelle, le prove di congresso in vista degli Stati Generali, e poi ancora il carcere senza PC. Il boss Graviano non depone su B, Berlusconi. Mandanti esterni, tace al processo 'ndrangheta stragista. Il capomafia chiamato a spiegare le intercettazioni in cui parlava di Berlusca a proposito delle stragi del 92-93, ma vuol prima riascoltarle, e a Terni non può. Non c'è il PC, appunto, apprendiamo Su Libero, l'Italia se ne frega della politica, salgono i guadagni, record dal 91 per l'avanzo commerciale che sfiora 48 miliardi alla faccia dei catastrofisti su Brexit e Trump. Siamo primi in Europa per giovani agricoltori, così dice Libero. Craxi supera Di Maio perfino in popolarità, Bettino al 42%, Gigino al 37%, ne scrive Renato Farina su Libero. Manifesto, ovviamente un altro punto di vista sulla questione Carola Rackete. Carola non si lega, ha agito per necessità, non andava arrestata. La Cassazione respinge il ricorso della Procura di Agrigento contro la scarcerazione della comandante della Sea-Watch 3. Una pesante sconfitta anche per Salvini e lunedì il Senato vota sul caso Gregoretti. Il Manifesto riporta in prima pagina un'altra notizia interessante: il cemento sul mare, la rivincita della destra, le coste della Sardegna non hanno pace. Un disegno di legge della giunta regionale di centrodestra tenta di scardinare i vincoli del piano di tutela paesaggistica prevedendo altro cemento a ridosso del mare. Contro la speculazione edilizia in agguato, gli ambientalisti chiamano alla mobilitazione, appelli al mondo della cultura, così il Manifesto. Leggiamo prima di passare alla linea viabilità anche l'apertura di Avvenire. Tasse, primi tagli, l'intesa governo sindacati, riduzione del cuneo per 16 milioni di lavoratori, il bonus sale a 100 euro, cresce la platea. Conte dice inizio della riforma fiscale. Al centro pagina Avvenire sceglie l'Africa che rinasce e cresce, dalle scuole in Uganda alle aziende che producono scarpe in Etiopia. È un approfondimento sul continente che parte dalla scuola primaria Great Valley Baraccopoli di Makindye, quadrante meridionale della capitale ugandese Kampala, così Avvenire. Diamo la linea alla viabilità e poi le ultime prime pagine dei giornali che ancora non vi abbiamo dato. In primo piano. Le 7.46 ancora abbiamo il Messaggero, l'apertura del Messaggero oggi: tasse sul lavoro ridotte, gli aumenti in busta paga da luglio, mini tagli per 16 milioni di dipendenti, benefici per i redditi fino a 40.000 euro, scontro sui 5 miliardi da dirottare alla riforma IRPEF. Centropagina, il Messaggero ci ricorda l'anatema di Khamenei, dice chi si ribella sta con gli americani, e poi un taglio ovviamente più sullo smog a Roma, tema di cui si parla ormai da giorni. Oggi si circola, scrive il Messaggero, ma domani c'è il blocco ecologico, romani spaesati, tornano in forse i diesel Euro 6. Dopo un filotto di 4 giorni di blocco a Roma, scrive Lorenzo De Cicco, oggi tornano in strada 700.000 auto diesel, ma la tregua dura poco. Domani c'è la domenica ecologica, già programmata da tempo, con uno straniante effetto stop and go per i romani. Raggi intanto è pronta a rivedere le interdizioni in forse i diesel Euro 6. A proposito di smog, ricordo che nel corso della trasmissione si può fare a partire dalle 8.30, ma nello specifico alle 9.15 avremo ospite il ministro dell'Ambiente Costa, con il quale appunto parleremo di smog e di quello che si può fare per cambiare la situazione. L'apertura della Verità oggi invece è dedicata a per la Cassazione, le ONG possono speronare le nostre motovedette, caso Capitana Rackete. Quindi i giudici bocciano il ricorso contro l'ordinanza che aveva rimesso in libertà la Rackete, salvava vite, non andava arrestata. Una novità che rischia di influenzare l'atteggiamento delle forze dell'ordine, così scrive La Verità. E infine, il Secolo XIX, infine rispetto ai quotidiani di cui disponiamo, ovviamente non a quelli possibili della giornata, comunque il Secolo XIX, Autostrade Liguria pronta a farsi avanti per la gestione. Inchiesta sul Morandi, slitta ancora la maxi perizia, controlli alle gallerie, partono le chiusure notturne. E ovviamente il Secolo XIX prosegue nelle sue indagini, nel suo monitoraggio sulla situazione viabilistica non solo di Ponte Morandi ma anche della regione. Ripartendo da quello che vi avevo annunciato, ovvero dall'approfondimento del Sole 24 Ore sulle energie, dicevamo della doppia sfida di Erdogan nelle acque tra Cipro e Libia, di cui scrive Roberto Bongiorni, ma anche degli articoli che accompagnano questo studio di Bongiorni. ovvero un approfondimento di Jacopo Giliberto, così i paesi balcanici perforano l'Adriatico che l'Italia abbandona, Montenegro e Albania assegnano i giacimenti individuati sotto il fondale. E qui Giliberto ci ricorda tutte le perforazioni che stanno avvenendo e le ricerche che stanno avvenendo nei paesi che si affacciano sull'Adriatico, la Grecia, l'Albania, e poi ci dice della Bosnia, poi ci dice della Croazia, insomma tutti i paesi che vanno a cercare combustibili fossili nell'Adriatico e nello Ionio, che diciamo in una certa misura potrebbero essere anche italiani, solo che l'Italia appunto ha rinunciato a cercarli e sfruttarli. L'Italia, conclude Giliberto, preferisce importare quelle risorse via petroliera o via metanodotto, mentre il TAP sta cominciando a posare la conduttura tra il Salento e l'Albania per far arrivare il gas dall'Azerbaigian. Nel frattempo il governo, nella manovra finanziaria approvata poche settimane fa, ha deciso di introdurre una specie di IMU sulle piattaforme petrolifere, mentre un anno fa il governo Conte 1 aveva deciso una moratoria di 18 mesi su tutti i progetti. Intanto, per la riduzione delle commesse petrolifere in Italia, la multinazionale di ingegneria Schlumberger ha deciso di licenziare il personale italiano, di chiudere la filiale di Ravenna e di trasferirne all'estero le attività. Ovviamente ci sono delle decisioni da prendere, ma anche appunto delle riflessioni da fare su aziende, imprese, posti di lavoro, investimenti dall'estero, e dovrebbe avanzare tutto di pari passo. Comunque Giliberto fotografa la situazione qui su Sole 24 Ore e Sissi Bellomo intanto ci fa sapere, sempre dalla stessa pagina, che il gas economico e green affossa il carbone. L'abbondanza sul mercato ne ha fatto crollare la valutazione nel 2019. In nome dell'ambiente, ma anche dell'economia, il ruolo del carbone nella generazione elettrica sta tramontando a una velocità senza precedenti in Europa, scacciato dall'avanzata delle rinnovabili e dal gas, che per tutto il 2019 si è dimostrato una soluzione più economica per alimentare le centrali. Era dai tempi della grande recessione 10 anni fa che il vantaggio non si manteneva così a lungo, scrive Sissi Bellomo. Poiché il tempo corre, vorrei dare una scorsa con voi alla intervista su Repubblica al commissario europeo Margaritis Schinas, che riguarda i migranti. Si cambia, dice Schinas, patto sui rimpatri e polizia europea, dice intervistato su Repubblica da Alberto D'Argenio. Come agirete questa volta, gli viene chiesto, tra le tante domande che vengono poste in questa intervista. Procederemo con un approccio complessivo che non comprirà solo la riforma del diritto di asilo e ricollocamenti fondamentali per i governi di Italia, Grecia, Malta e Spagna. Oltre alla solidarietà, regoleremo da subito anche gli elementi di responsabilità indispensabili ai paesi del nord e dell'est, rinforzando i confini esterni, lanciando una vera politica di rimpatri, creando corridoi legali per migranti altamente qualificati. E questo è un passaggio. E poi l'altro passaggio che vi segnalo sulle ONG: le ONG sono una parte della soluzione, fanno un grandissimo lavoro, tuttavia devono essere inquadrate in una cornice legale che al momento non c'è. Per fortuna nel Mediterraneo centrale da settembre è in vigore l'accordo di Malta, grazie al quale l'82% dei migranti salvati dall'ONG è ricollocabile tra i paesi che volontariamente hanno scelto di prendervi parte. Negli ultimi minuti a nostra disposizione andiamo sulla stampa. Vi avevo detto della UE che dice no al riconoscimento facciale. Ecco qua nello specifico il caso viene approfondito da Maria Rosa Tomasello, che ci dice che mentre in Cina, come negli Stati Uniti, l'utilizzo del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici diventa sempre più invasivo, l'Unione Europea frena sull'utilizzo di una tecnologia ad alto rischio per la privacy, prepara una moratoria per valutare i potenziali pericoli. L'allarme è contenuto in un documento anticipato ieri da Reuters e Politico.com, che prevede la possibilità di introdurre un divieto a tempo determinato da 3 a 5 anni per sviluppare una solida metodologia per valutare gli impatti e le possibili misure di gestione dei rischi, con eccezioni limitate a progetti di sicurezza oltre che di ricerca e sviluppo. Oggi, nei 28 Stati membri, dell'Unione Europea, i dati biometrici possono essere raccolti solo con il consenso della persona interessata e usati unicamente nell'ambito di procedimenti giudiziari o per motivi di interesse pubblico. In Italia il progetto più rilevante è certamente il sistema automatico di riconoscimento immagini SARI, si chiama così, enorme database utilizzato dalle forze dell'ordine che contiene i nomi e i volti di 16 milioni di persone. Ma nuove sperimentazioni sono alle porte e si parla di delle sperimentazioni appunto che sono in atto, ma uno dei limiti è che appunto questi sistemi ancora hanno dei margini di errore e anche piuttosto consistenti, e quindi la prudenza dovrebbe essere d'obbligo. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.